È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato sul tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Hola, buenos días a todos. Aquí Rudy Gnutti que os habla y estoy encantado de presentar una vez más el programa No Solo Eros, un programa dedicado a la música italiana y más que nada a la música que aquí no llega o que se oye muy poco. Hoy además estoy encantado de presentar la verdadera estrella italiana de rock. Es quizá el cantante o el cantador de rock más conocido. Estoy hablando de Luciano Ligabue. Ligabue, que tiene ahora más o menos unos 40 y pico de años, ha grabado muchísimos discos, y diría que más de 10, y además se ha estrenado también como director de cine y escritor. Y por cierto, aconsejo a quien encuentra esa película, que se llama Radio Freccia, de alquilarla, porque es realmente interesante. Habla de la problemática de una radio independiente en los años 70 y además es una historia generacional y, bueno, además muy divertida. Yo pienso que la película se podrá encontrar en los diferentes videoclubs que últimamente han abierto en Barcelona. Claramente son videoclubs alternativos que se pueden ver versiones originales, etcétera. Si no me acuerdo mal, hay uno seguramente en la calle Verdi y otro en la Plaza Revolución, siempre en Gracia. Bueno, otra cosa a destacar de Luciano Ligabue es la extraordinaria personalidad que tiene, aparte evidentemente la grande voz y la fuerza en el escenario. Porque Luciano Ligabue, aunque es una auténtica estrella en Italia, se nota que este éxito no le ha subido a la cabeza y, por ejemplo, sigue viviendo en el pequeño pueblo donde él ha nacido, en el norte de Italia, en la región de la Emilia-Romagna. El tema que vamos a escuchar ahora acaba de salir con el último disco, Il giorno dei giorni. Es un disco que salió en Italia hace un par de meses. Y el tema se llama también Il giorno dei giorni, Luciano Ligabue. Fatti vedere meglio, fare l'amore o sesso, qui non è più un dettaglio. Baciami la fortuna, baciami le parole che sai già. Baciami il sangue mentre gira, sei arrivata apposta. Come ci frega l'amore, da degli appuntamenti, poi viene quando gli pare. Soffia su questo tempo, tienilo acceso sempre, tu che vuoi, che andiamo verso il giorno dei giorni, senza più limiti, il giorno dei giorni, fino a quel giorno, voi non svegliateci, tienimi sulla vita, cosa combina l'amore. Per i suoi effetti e non sentirsi coglione, ogni minuto è pieno, ogni minuto è vero, se ci sei, che è già partito il giorno dei giorni, fatto per vivere, il giorno dei giorni, tutto da fare e niente da perdere, il giorno dei giorni. femmina come la guerra, femmina come la pace, femmina come la croce, femmina come la voce, femmina come sai, femmina come puoi, femmina come la sorte, femmina come la morte, femmina come la vita, femmina come l'entrata, femmina come l'uscita, femmina come le carte, femmina come sei, femmina come puoi, che siamo dentro al giorno dei giorni, fatto per vivere, il giorno dei giorni, tutto da fare e niente da perdere, il giorno dei giorni, senza più limiti, il giorno dei giorni, attimi e secoli, lacrime e brividi, femmina come la terra, femmina come la guerra, femmina come la pace, femmina come la croce, femmina come la voce, femmina come sei, femmina come puoi. Tema que ya estamos escuchando, en cambio, ha sido grabado ya hace unos cuantos años. Una de las canciones emblemáticas de Ligabue, que se llama Seduto en Riva al Fosso, y está incluido en el disco Buon Compleanno Elvis. Con eso me despido y hasta la próxima. Chao a tutti. A voi, solo a voi, la lascio fare a voi che io sto bene qui, seduto in riva al fosso. Io sto bene qui, seduto in riva al fosso. Della luna o sei proprio bella, se vuoi siediti, hai parcheggiato e camminato, non sai quanto, non sai dove sei, ma sei qui, lontana da te, lontana da voi, lontana da uno specchio che non dice chi sei, se sotto il cielo c'è qualcosa di speciale passerà di qui prima o poi. Comunque tu lo sai che se sta bene qui, seduto in riva al fosso, siamo bene qui, seduto in riva al fosso. Con la guida ed hanno apparecchiato per il loro picnic, con sedie, tavolini, la TV, i telefonini e le facce di chi va lontano da chi, lontano da che, lontano per sentito dire senza un perché, se vuole stare resta pure, ho da fare.